Radio 24 Reportage. Dentro i gironi delle carceri italiane, di Raffaella Calandra. In certe celle, anche riuscire a mettere i piedi a terra può essere una conquista. Non c'è lo spazio neanche per poter stare tutti insieme giù dalle brande. A tutti e sei non riusciamo a toccare il pavimento, dobbiamo scendere a turno per poter mangiare. 8 metri quadrati, letti e tavolo compreso, per 6 detenuti. Sta qui, al sesto raggio di San Vittore, a Milano, il girone dei dannati, condannati a fare i turni pure per toccare il pavimento. È sulle brande sospese a 2 metri di altezza l'affollamento delle carceri italiane, dalla Lombardia alla Sicilia, dove 65.000 persone sono stipate in spazi concepiti per 47.000. Tutto allora diventa attesa e traguardo. La fila per il bagno al mattino, quello per la doccia in corridoio, i turni per mangiare, i tempi più lunghi per le visite, per i colloqui e quindi anche per l'accesso ai corsi. Vista da dentro una cella nel penitenziario più antico di Milano o in quello più affollato d'Italia, Poggio Reale, a Napoli, è sempre alla terza mandata che lo spazio appare davvero per quello che è. Quando cioè il cancello è chiuso e anche se le gambe dei detenuti pendono dalle brande, i passi si riducono massimo a 3. Sembra allora diminuire pure l'aria che filtra dalle grate dell'unica finestra, affollata anch'essa di panni stesi e scorte di frutta. Il sole scalda ancora le mura di questa cella del reparto Italia di Poggio Reale e quello che doveva essere il caldo dell'estate partenopea lo leggi tuttora sul viso di Luigi e di Sergio. C'è il caldo, è qualcosa di veramente insopportabile. La direzione quest'anno per fortuna ci ha consentito di acquistare dei piccoli ventilatori a pile, un minimo refrigerio che però ha dato veramente un refrigerio importante. A volte sei sulla brandia, aspetta quell'alito di vento, sei mezzo morto, veramente qualcosa di impossibile. Non passa un filo d'aria, si crea anche più tensione inevitabilmente. Prendere asciugamani, bagnarli, metterti addosso per stare un po' più fresco, perché purtroppo l'aria non passa. Cioè, cerchiamo di arrangiarci, perché purtroppo, essendo 9, fosse diverso, però purtroppo c'è il sovraffollamento è enorme. Si diffonde tra scale e saloni, supera le porte blindate e passa attraverso le reti che dividono le balconate dei 4 piani la voce del carcere, una sola in questa casa circondariale solo maschile dove ora 2.656 detenuti stanno incastrati come i loro letti a castello in reparti pensati per 1.503 posti. Seduti in cella, dall'altra parte del cancello, come affacciati alla porta di un basso napoletano, seguono ogni movimento e affidano alle proprie corde vocali ogni genere di richiesta. Da qui il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ha aperto il dibattito sul provvedimento di clemenza e spalancato la speranza di chi, come Sergio, ha ancora davanti a sé 7 anni. Dall'esterno si sentono persone che hanno problemi, difficoltà, che magari non ci stanno con la testa, che urlano, sbattono. Com'è stata per voi la visita del capo dello Stato? È stata una cosa emozionante, anche perché poi da Poggio Reale è nata la proposta del capo dello Stato di questa amnistia e indulto. Come la vivete questo dibattito che c'è? Dal punto di vista di noi dei detenuti, viene vissuto col fiato sospeso, cioè ogni minimo accenno all'amnistia o all'indulto ci mette in agitazione, ci fa sperare. Poi si aspetta sempre. La prima cosa che si impara qui in carcere è aspettare. Nelle 24 ore di una giornata scandita da tappe, aspettano il carrello con la colazione o i pasti, aspettano per i colloqui di vario genere, aspettano per poter scendere nei cortili tra alte mura di cemento per l'ora d'aria o per una partita di calcio, quando c'è. Ma c'è chi in una cella come questa del sesto raggio di San Vittore a Milano ha imparato ad aspettare anche per mettere i piedi a terra. Tutti e 11, quando siamo giù dalle brande non è che ci sia molto spazio, qualcuno deve rimanere sempre sdraiato in branda per far sì che la cosa sia un attimino più, tranquilla, ecco. Tutti e sei non riusciamo a toccare il pavimento, ecco, dobbiamo scendere a turno per poter mangiare. Ovviamente il bagno lo condividiamo, ovviamente c'è semplicemente una turca e ci sono due tavoli dove noi appoggiamo dei fornelli per poterci preparare da mangiare, c'è un lavandino, non c'è acqua calda. Già sei è impossibile, è una cella che ne potrebbe contenere due, ma due persone le potrebbe contenere a patto che venisse ristrutturata, perché gli impianti elettrici sono fatiscenti, sono fili pendenti, le luci sono praticamente non c'è abbastanza luce neanche per poter leggere, diciamo gli infissi da qualche parte non esistono proprio, sono stati sfilati perché ovviamente non potendo aprire le finestre i vetri vengono sfilati, non c'è pavimentazione in buona parte delle celle, c'è una situazione igienico-sanitaria allarmante, tenga conto che non abbiamo detersivi per poter pulire, dobbiamo acquistarli, ma molte persone tenga conto che qui non hanno i soldi per poter comprare il detersivo, ci sono casi di tubercolosi, ci sono stati casi di scabbia. E poi invece le docce le condividete in quanti? Per ogni piano ci sono 4 docce, ci abbiamo 3 minuti a testa per poter fare la doccia. Quindi in questo raggio le 4 docce le condividete? In 100. I blindo sono aperti e dai cancelli di celle stipate di uomini, vite e ritagli arrivano odori di cucina e nuvole di fumo. La sigaretta, insieme alla TV, è il principale e tollerato sfogo per i reclusi di un carcere che ora ospita 500 persone in più del dovuto. Carrelli, come quelli che trasportano i bagagli di un aeroporto, smistano i pacchi che le famiglie mandano. Avere cibo e vestiti propri e avere una doccia in cella può fare la differenza. In 11 non è che si stia molto, diciamo, bene, ecco, i spazi sono comunque limitati. Abbiamo la fortuna in questo raggio comunque di avere la doccia in bagno. 11 a dividersi un bagno. Infatti al mattino quando ci svegliamo tutti e 11 c'è un po' un casino. Siamo dati delle regole del tipo... Non ci svegliamo tutti assieme. Quanto tempo vi chiede dati per ciascuno in bagno? Non più di 5 minuti. Si aspetta che uno finisca in bagno prima di scendere dalla branda, perché sennò ci sarebbe un casino, una confusione, e poi sa, il nervoso così comporterebbe anche a litigi in cella. Il volume della TV, il cibo da preparare, un oggetto fuori posto o uno spintone involontario. In uno spazio così ristretto possono accendersi a volte per poco o nulla discussioni che non si sa mai dove possono portare. Dalle grate, insieme alle buste con le forme di pane, pende una tensione a volte percepibile, altre sopita dalla rassegnazione indotta non di rado da psicofarmaci prescritti in quantità, come conferma la psicologa di San Vittore, Federica Martinetti. Una delle richieste che viene fatta è poi quella di passare tramite lo psichiatra per avere della terapia, sicuramente. Difficoltà di addormentamento, problemi di claustrofobia, che ovviamente qui in un ambiente ristretto, in un ambiente piccolo ci sono, e poi problemi di convivenza con le altre persone. Da un raggio all'altro l'atmosfera può cambiare e anche di molto. Quando si arriva infatti al reparto femminile di San Vittore, 108 posti letto che potrebbe presto essere chiuso, però il cinguettio degli uccelli nel giardino, usato anche per gli incontri con i bambini, e il suono delle macchine da cucire fa quasi dimenticare di essere in un carcere. Facciamo borse, grembiule per i bambini della scuola, facciamo anche le nostre abiti per il nostro negozio e poi per la cooperativa esterna che ci chiedono anche le toga per i magistrati. E per ridurre il trauma dei neo arrivati, Attac, giovane senegalese che tutti chiamano Balotelli, sta dipingendo coi colori del sole la zona matricola. Ti dava subito segnale di turbamento, cioè pensavi di entrare in un incubo. Mentre voi adesso di che colore lo state facendo? Salmone, azzurro, blu scuro. Poi io adesso vedo il giallo, cioè non penso di essere dentro al carcere, no? È proprio il lavoro e la difficoltà di dare una risposta alle tante richieste dei più giovani, che a Poggio Reale superano il 60%, il principale cruccio della direttrice Teresa Abate. È un carcere delicatissimo in una città molto delicata. Non si può andare incontro alle richieste enormi di lavoro. Per quanto noi abbiamo cercato di mettere in campo tante attività nell'ultimo anno, di tipo sportivo, di tipo culturale, laboratori di arte presepiale, di ceramica. Abbiamo fatto dei corsi per guide turistiche spendibili sul mercato dopo, come pure quello dell'arte presepiale. Tutto questo non basta rispetto alle richieste enormi che abbiamo. Portare sempre più la città di fuori all'interno del recinto di San Vittore è l'auspicio e lo sforzo anche di un'altra donna che guida il più vecchio carcere milanese, Gloria Manzelli. Quello che, di cui forse ci sarebbe bisogno in questo momento è la presenza di mediatori culturali e di operatori che ci possano aiutare continuamente a presidiare le necessità del detenuto, a presidiare e a risolvere. Così, seduti sulle loro brande in attesa del proprio turno per scendere a terra, i detenuti aspettano l'esito del dibattito sulla clemenza e ricordano a chi è contrario, come fa Maurizio, lo spirito della Costituzione. Certo, in questo posto ci sono capitato per mia scelta, nessuno mi ha mandato qui, ho fatto io qualcosa che non dovevo fare per essere qui. Però, comunque, si vive male. Queste persone, gli vorrei dire di non giudicare, non trattarci come delle persone che abbiamo sbagliato e dobbiamo pagare. Sì, ok, pagare, ma nel modo giusto. Ecco, tutto qua. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.